Nuove tecnologie con il volevo tuo. Dirtelo dal vivo, ma è difficile, capibile. Se rivedo me stesso dentro la tua iride, ti vedo ridere di rado, vivere d'un fiato e poi lottare disarmato in mezzo a troppe vipere. Sarò l'antidoto che curi i morsi più profondi. Se dopo mille giorni non torneranno i conti, sarò la luce nei tuoi giorni bui, motivo per cui io sarò colui con cui tu ti confronti. Me l'hai insegnato a riconoscere il bene dal male, eppure a volte devo chiedere consiglio a te. Ma bene o male l'ho imparato ed è fondamentale rubarti 3 minuti al giorno per un caffè con te. Se chiedo mi rispondi, insieme a mamma sei protagonista nei miei sogni. Quando piango perché questa vita non fa sconti, e so che quando c'è un problema tu non ti nascondi mai, lo sai. Volevo dirti grazie ma è banale, grazie tanti uguale, grazie quanto il bene che sai dare. 55 primavere sulle spalle, palle quadre nella patta, gambe in spalle, dritti a lavorare. Ti regalato abbiamo avuto niente, qualche stronzo parla a caso e dice tutto mente. Se parliamo a nonno per chiedere aiuto, sente stesso sguardo di chi lotta e stesso cuore, sempre. Volevo scrivere un pezzo d'amore, un pezzo d'amore, pezzo d'amore. Volevo scrivere un pezzo d'amore. Volevo scrivere un pezzo d'amore, un pezzo d'amore, pezzo d'amore. Volevo scrivere un pezzo d'amore. Volevo scrivere un pezzo d'amore, un pezzo d'amore, pezzo d'amore. Volevo scrivere un pezzo d'amore. Volevo scrivere un pezzo d'amore, un pezzo d'amore, pezzo d'amore. E allora ho scritto un pezzo d'amore. È sempre il mio, sempre più forte, sempre più potente, sempre più moderno. Unico, indistruttibile. Ciao. Fantastico, fantastico, fantastico. Tra l'altro nelle registrazioni vocali è la mia stessa voce, questo mi confonde abbastanza. Quindi quando sei giù di voce, prepara i tuoi compagni che verrò a cantare io. Ciao, buona serata, io adesso gioco alle play con tuo fratello. Ciao. Gliel'ho detto e sono felicissimi, almeno testeranno le tue capacità vocali. Salutami Tommy, va, buona serata, ciao qua. Volevo scrivere un pezzo d'amore, un pezzo d'amore, pezzo d'amore. Volevo scrivere un pezzo d'amore. Volevo scrivere un pezzo d'amore, un pezzo d'amore, pezzo d'amore. Volevo scrivere un pezzo d'amore. Volevo scrivere un pezzo d'amore.